La situazione è ovviamente drammatica, siamo in piena catastrofe umanitaria. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell'OCHA sono morti, e quindi secondo diciamo, i dati del Ministero della Sanità sia palestinese che israeliano, sono morti a Gaza 11.000 persone, di cui almeno 4.500 sono i bambini, ma altri 1.700 rimangono dispersi, quindi probabilmente sono sotto le macerie. E a Gaza è tutto veramente, diciamo, quasi tutto è distrutto, cioè c'è la carenza di cibo, di acqua potabile, quindi con gravissimi rischi per le persone, per i più piccoli soprattutto, quindi per i più vulnerabili che rischiano anche di morire per la disidratazione. C'è la mancanza di carburante che sta mettendo fortemente a rischio, anzi ha già impedito a molti ospedali di poter fare operazioni e le loro normali attività. Inoltre, in seguito al bombardamento del più grande complesso ospedaliero di Gaza e di altri tre ospedali proprio pochi giorni fa, che ospitano migliaia di pazienti ma anche più di 100.000 sfollati che cercano proprio riparo dagli attacchi aerei e dai combattimenti. Le Nazioni Unite hanno riferito che più della metà degli ospedali di Gaza e quasi due terzi delle strutture sanitarie primarie non funzionano più, proprio a causa della scarsità di carburante per alimentare i generatori, forniture medico, acqua potabile, mettendo a rischio almeno 2.000 pazienti oncologici e, come abbiamo anche sentito in questi giorni, purtroppo 130 neonati in incubatrice. Anche la vita di centinaia di migliaia di persone che si stanno rifugiando nelle scuole è fortemente a rischio, perché il 50% delle strutture scolastiche di Gaza sono state colpite dagli attacchi aerei israeliani. Si dice che anche almeno 100 operatori delle Nazioni Unite sono stati uccisi dall'inizio delle ostilità, rendendo questo periodo il più letale per gli operatori umanitari delle Nazioni Unite proprio a livello globale. Naturalmente noi che cosa diciamo? Anzitutto che gli ospedali e le scuole non possono essere campi di battaglia e i bambini non possono essere bersagli. Prima di tutto bisogna, diciamo, rispettare il diritto internazionale umanitario. Chiaramente la cosa che si chiede a gran voce fortemente è un cessate il fuoco, lo si chiede a entrambe le parti, perché i bambini stanno pagando un prezzo altissimo per un conflitto al quale loro non partecipano minimamente. Diciamo, la situazione è molto grave anche in Cisgiordania, dove c'è stato un aumento delle morti, ci sono almeno 46 bambini sono rimasti uccisi dall'escalation delle violenze iniziate il 7 ottobre. C'è stato anche un aumento di violenza legata ai coloni, ai conseguenti sfollamenti forzati. L'ONU ha segnalato una media di 7 incidenti al giorno dal 7 ottobre che hanno provocato vittime palestinesi, danni alle proprietà palestinesi. Naturalmente ci sono anche le grandissime sofferenze dei bambini israeliani, almeno 33 sembra che siano rimasti uccisi, una trentina sono in ostaggio, quindi quello che si chiede è l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi, a partire chiaramente dai più vulnerabili, ma in generale di tutti gli ostaggi, e un cessate il fuoco perché tutta la popolazione della zona, Gaza, Cisgiordania e Israele, sta pagando un prezzo altissimo per questa escalation di violenza. Un aspetto che voi sottolineate, che purtroppo non viene mai preso in considerazione abbastanza, sono anche i traumi psicologici che questi bambini stanno vivendo. Sì, esattamente così. Questi bambini già prima dell'inizio di questa escalation delle ostilità, noi l'anno scorso abbiamo pubblicato un rapporto che metteva in evidenza come almeno 4 bambini su 5, l'80%, soffriva di ansia, di paura, di terrore, facevano la pipì a letto. Ovviamente con l'aumento delle ostilità sono aumentati notevolmente l'esposizione a questi episodi estremamente traumatici, anche perché un fenomeno purtroppo che si sta riscontrando è quello di molti bambini feriti che arrivano negli ospedali e che non hanno alcun parente sopravvissuto. Infatti è stato coniato proprio un termine: bambini feriti senza familiari sopravvissuti. Quindi questi bambini non hanno, molti di loro proprio hanno perso tutto, hanno perso la casa, hanno perso i loro punti di riferimento, tutti i loro averi, hanno perso i propri familiari, spesso sono feriti e sono esposti continuamente ad eventi traumatici, non hanno neanche un posto dove andare, perché in genere in queste situazioni di estrema violenza quello che può un appiglio che può aiutare, diciamo, la salute mentale è cercare appunto un posto sicuro dove potersi rifugiare, e a Gaza non è rimasto alcun posto sicuro dove andare, quindi sicuramente è gravissima la situazione della salute mentale dei più piccoli, e si rischia di arrivare a un punto di rottura, quindi un punto di non ritorno.